con Monica Naldi di Bars and Hippo per parlare del documentario Le Grand Ball al cinema da giovedì 2 maggio 2019. Monica, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti. Per chi ci ascolta, lo presentiamo, ci dici di cosa si parla? Sì, allora, il film è un documentario, anche se noi non amiamo questa parola perché ormai i confini sono un po' labili, che racconta di un festival che si tiene in Francia tutti gli anni, da parecchi anni, in cui per 7 giorni, 8 notti, poi adesso pare sia addirittura raddoppiato. Arrivano persone da tutta Europa, persone di tutte le età, di tutte le classi sociali, che si trovano lì e ballano. Ballano al suono di concerti dal vivo e ballano balli folk che hanno un grosso seguito anche in Italia. Ci sono tanti gruppi di ballerini folk anche in Italia, un po' dappertutto. Però al di là di essere questo resoconto, diciamo, giorno e notte, perché poi si mostra quello che avviene 24 ore su 24, è un film sul ballo, cioè sul senso del ballo come momento di condivisione, di contatto fisico, di contatto umano anche tra persone che non si conoscono, e quindi ci sembrava molto bello soprattutto questo aspetto così intimo. Ho l'impressione rispetto all'evento che sia, nonostante la massiccia presenza e le provenienze da diverse parti, molto locale, soprattutto riguardo alla musica, degli artisti coinvolti c'è solo come extra, per quello che ho visto, un gruppo salentino che spiega la pizzica. Di italiani c'è solo un gruppo salentino, ci sono gruppi greci, ci sono gruppi di altri paesi, poi ci sono molti gruppi francesi, come ovvio che sia, essendo in Francia. Certo. Poi se vai a un festival, ce ne sono anche in Italia di festival come questo, magari un pochino più piccoli, però anche abbastanza consistenti, dove ovviamente ci sono dei musicisti francesi che arrivano, ma poi ci sono i musicisti italiani. Se Certo. vai in Grecia, suppongo che il peso, insomma, del territorio sia diverso. Sì. Oh, Monica, cosa ti ha impressionato maggiormente di questo lavoro? Il fatto che è un film piccolino, che parte lento, insomma, all'inizio sembra un film descrittivo, anche se fin dall'inizio ci sono delle osservazioni più di senso. E a poco a poco ti coinvolge sempre di più, e anche se sei una persona che non balla i balli folk, non balla per niente, riesce veramente a trasmetterti questo senso di comunità che si crea quasi dal nulla attraverso il ballo e la musica, e che diventa molto forte perché è un momento in cui le persone si mettono alla prova con le proprie timidezze, con le proprie abitudini, le scardinano per qualche giorno e creano una sorta di microcosmo di relazioni sociali da zero che è molto interessante. Anche perché è una settimana particolarmente intensiva, di giorno ci sono i laboratori e le lezioni e la notte i balli. Si balla di giorno e di notte, di giorno ci sono questi stage, la sera ci sono i balli ufficiali, fra virgolette, che vanno avanti fino a notte fonda, e poi quando i balli ufficiali smettono e apparentemente tutto si ferma, in realtà subito dopo alcuni musicisti spontaneamente ricominciano a suonare, e quelli che non vogliono andare a dormire o che hanno dormito di giorno cominciano a ballare. E spesso sono i più giovani che ballano tutta la notte fino al mattino. Per cui c'è un'alternanza continua, e la regista, Laetitia Carton, ha seguito proprio questi balli giorno e notte con due troupe, una per il giorno e una per la notte. Ecco, di questa regista cos'altro sappiamo? Ma in Italia praticamente nulla, perché è il primo film che arriva in Italia suo. È una regista di documentari, ha fatto un documentario sui sordomuti, ad esempio, e questo si nota forse per un personaggio che c'è nel film, che mima a un certo punto durante un ballo una canzone, il testo di una canzone attraverso il linguaggio dei segni. È una regista abbastanza impegnata anche sul fronte della produzione, fra l'altro la sua casa di produzione è quella che ha prodotto anche Libero, il film sul confine di Sì. Ventimiglia. Con questo film è stata selezionata in César, era nella cinquina finale, e è stata selezionata a Cannes. fuori concorso e ha fatto ballare tutta la Croisette, hanno ballato sulla spiaggia col suo film. E il film finora dove è uscito? Esattamente adesso non lo so, credo a parte la Francia, penso che sia uscito in Inghilterra e non so bene in quali altri paesi europei. Ok. Che Dimmi. distribuzione sarà la vostra? Noi siamo piccolissimi, non siamo dei veri distributori, come sai siamo degli esercenti. Ogni tanto prendiamo, questo è il terzo film che prendiamo, ne stiamo prendendo uno all'anno, un film che ci dispiace che non esca, diciamo. Questo ci è stato presentato da un gruppo di ballerini, di Folkambrös di Milano, di Sesto anzi, e facciamo insieme a loro una distribuzione piccolina, a poco a poco, anche se avrà già un'uscita in parecchie città fin dal primo giorno. In questo caso, trattandosi appunto di un film che coinvolge le comunità dei ballerini, dei danzatori folk, sarà accompagnato da un sacco di iniziative sul territorio che sono sorte anche del tutto spontaneamente nel momento in cui ha saputo che c'era il film, accompagnano il film con dei balli. Ci racconti anche brevemente della vostra realtà? Ci chiamiamo Bartendi, siamo piccoli, facciamo da molti anni, ci occupiamo di proiezioni cinematografiche, rassegne, eccetera, gestione di sale. Prima gestivamo solo due sale in provincia di Milano, due sale comunali. Paola fa anche la programmazione di qualche altra piccola sala. E poi è arrivato il Beltrade, che ci è stato proposto come scommessa perché non chiudesse. A poco a poco è cresciuto e sta andando bene, siamo molto contenti insomma di questa realtà che ci sembra vivace, ci sembra piacere, che ci assorbe anche un sacco di energie e poi appunto ogni tanto un po' per variare un po' la situazione, un po' perché l'ambito della distribuzione è abbastanza ingessato in Italia, è abbastanza complicato, ci sono tanti film che non arrivano, allora ogni tanto abbiamo deciso di fare questa cosa, di prendere un film e portarlo in Italia. E allora ricordiamo il documentario Le Grand Ball al cinema da giovedì 2 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Monica Naldi di Bars & Hippo che lo distribuisce. Monica, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, vi aspettiamo in particolare al Beltrade dal 3, da venerdì, ma anche a Brescia, anche a Bergamo e in moltissime altre città dove esce appunto fin dai primi giorni. Un saluto a tutti e grazie.